Suppongo che anche voi siate commossi dalla notizia che l'Italia, dopo aver finalmente centrato l'obiettivo della moneta unica, è successo grazie al quale avremo il piacere di vedere i nostri conti pubblici controllati per chissà quanti anni dai banchieri tedeschi, cosa che suppongo non priva di conseguenze sulle nostre finanze private, e tutti voi sarete commossi alla notizia che l'Italia è stata ammessa altrettanto trionfalmente nell'area di Schengen. La zona di libera circolazione dei cittadini, inaugurata nel marzo 95, cui aderiscono 8 paesi europei e dalla quale finora, a nostra vergogna, eravamo esclusi. La cosa significa, nel concreto, l'eliminazione delle sbarre di frontiera ai confini con l'Austria e la Francia. Evento che è stato solennemente celebrato dal nostro ministro degli interni, che ha abbracciato al Brennero il suo omologo austriaco, mentre la banda di polizia italiana suonava la marcia trionfale della Ida e quella della gendarmeria austriaca si esibiva nella marcia di Radeschi. E al Gaio Concento si univano i clacson dei camionisti di passaggio, gli evviva delle classi scolastiche in gita e gli yodel dei tirolesi del nord e del sud finalmente riuniti. Un mix forse un po' troppo ricco dal punto di vista sonoro, ma non privo di un suo valore simbolico. D'ora in poi tutti potranno liberamente attraversare quelle frontiere senza esibire il passaporto. Evviva! Oddio, proprio tutti no. A quanto ho potuto capire dai giornali, il privilegio ovviamente è riservato ai cittadini dei paesi firmatari. Gli altri dovranno continuare a esibire in caso di controllo mobile la frontiera, adesso si dice così, passaporti e visti. E visto che nessuno reca scritto in fronte la propria nazionalità, anche se qualche idea in merito le guardie di confine potranno farselo osservando la colorazione facciale degli interessati, a tutti potrà capitare di sentirsi chiedere ed esibire i documenti. Basterà la semplice carta d'identità. Non mi dite che la carta d'identità al confine austriaco e francese bastava già prima, e che anche allora, a pensarci bene, ti veniva chiesta solo ogni tanto. È tutta un'altra cosa. Prima serviva a dimostrare il fatto che eri autorizzato ad espatriare. Adesso serve a dimostrare il fatto che in quanto cittadino dell'area Schengen sei autorizzato ad espatriare. È una differenza formale, ma sempre una differenza è. E non nasconde il fatto che le frontiere comunque non ci sono più. Nel senso, abbiamo sempre letto che le pattuglie incaricate dei controlli potrete incontrarle anche dopo, o anche prima della linea di confine, e potranno essere delle pattuglie miste, come misti potranno essere i commissariati da cui dipendono. E naturalmente la polizia, in questo nuovo clima di fratellanza internazionalista, ha la ovvia facoltà di proseguire i suoi inseguimenti oltre confine. E potrà appoggiarsi al nuovo Schengen Information System, una super banca dati in cui tutti i paesi membri accedono inserendovi le informazioni relative alle persone e agli oggetti ricercati. Come ovvia conseguenza di questo clima di collaborazione continentale, infine, le procedure di estradizione tra un paese e l'altro saranno enormemente semplificate, fino a ridursi al livello di una semplice formalità burocratica. Dunque, ricapitoliamo. Adesso che siamo tutti nel sistema di Schengen, per passare la frontiera non c'è che da mostrare la carta d'identità quando ti chiedono di mostrargliela. E non solo la frontiera, come succedeva prima, ma anche prima e dopo. In compenso, i tuoi dati saranno disponibili alle autorità di pubblica sicurezza di tutta Europa, le varie polizie potranno inseguirti in tutta libertà da un paese all'altro e in caso di arresto la magistratura potrà estradarti senza problemi. Al riconoscimento di un diritto puramente formale corrisponde un sostanziale restringimento delle guarentigie di cui prima dell'accordo di Schengen si poteva godere in fatto di libertà personale, sì che non è fuori luogo supporre che la logica primaria di quell'accordo sia quella di coordinare e rafforzare i sistemi polizieschi, e che l'averlo definito un accordo di libera circolazione sia solo uno dei tanti eufemismi a cui tutta la storia della costruzione europea ci ha abbondantemente abituati. A meno naturalmente che la libera circolazione a cui ci si riferisce sia quella dei poliziotti. In Italia l'accordo di Schengen è entrato in vigore il 1 aprile. Indubbiamente è stato un bello scherzo. Ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non...